è partita. Se da me partita per mai più non tornare, ed io rimango, no, no, che se i versi alcuna cosa ponno, n'andrò sicura più profondi abissi. Rivedere le stelle, o se ciò negherà mio impio destino.